nostalgia. Oggi mi fa ricordare la malia che tu, male d'amore, quanta malinconia. Povero cuore, non mi scordare tu. Tu che m'hai fatto soffrir, tu che m'hai fatto sognar. Povero cuore, non mi tradir mai più. Amore, quanta malinconia. Povero cuore, non mi scordare tu. Tu che m'hai fatto soffrir, tu che m'hai fatto sognar. Povero cuore, non mi scordar mai più.